trovare questo rumore, dicendo wiu, wiu, questo rumore qua sono della propagazione. Gianni! Mario! Ma che cosa? io non lo faccio mai conoscere più voi, ma più una cappa, cappa. Un bit ci ho inserito. Cosa? Un bit ci ho inserito. No, uno, dito uno. Come c'è che non mi sono smesso a cavolo indietro, adesso? No, adesso no. Comunque, boh, c'è un po' di cielo, ci ho fatto parecchio, perché... Guarda, sono tutti quattro circoli in guardia, ci vado per solo, per dire, se io non riesco a, a chiarificare. E no, ma dai, non devi veramente scaldare, ma tu non sentivi quella che stavo, che ho chiamato? Sì, io. E allora, che, come ti stava arrivando, che segnale? Sì, non ci ho fatto caso, ma te lo sentivo bene. E allora non c'entra niente, dai, se lo sentivi, va benissimo, ma ora che sta uscendo bene, mica, non ti puoi... Lascialo così, lascialo, che sta uscendo bene, deve scaldare. Secondo me te ne accesi anche da poco, tu. Sì, ma c'è da poco, però questo non è un valvolare. Non c'entra niente, ma deve scaldare, anche questo deve scaldare. Questi qui slittano un po'. Per slittano, no, no, no, va bene così. Ma non c'è nessuno oggi. Sì, c'è la Luca poco fa, è qui. Sì, stamattina c'era Rocchi, c'era Mario, c'era... Tutti qui qua. Tutta la mia sera. Ma come si chiama? Qui c'è Roberto Quadrato, eccetera, eccetera. Ah, cazzo, no, stamane no. Stamane stavamo lavorando, abbiamo fatto straordinari, quindi... Non ho niente, sono entrato a luna, un po' prima, leggermente prima di luna, sono entrato mio figlio. Quindi negativo. Ok. Senti, mi ho già telefonato, la chiamata, perché mi stavo chiamando, c'è con solo. E invece se sono stato bambino che ho lavorato lo stesso, lavorato stasera. Tutto ciò che lui è, non è fatto. No, negativo, no, no. Ma l'abbiamo fatto stamattina proprio perché se avevamo da lavorare un tratto, dobbiamo tirarlo via. Facciamo noi come orario, chiudiamo, chiudiamo alle 6:30 del venerdì. Cioè, non, siamo col cerchi. Dal sabato sarebbe straordinario. Anzi, forse per me farei come il continente, cioè che farei qualche cosa, una mezz'età in più al giorno, una mezz'età in più al giorno, ma fino a venerdì a mare pranzo, come fanno il continente già. Sì, vabbè, sono andato, è proprio che ce la devo sbrigare, come fare. Ma tu ti vedi là, ma lì è, poi so che te lo chiede. Ma è scappa, questo è senz'altro, per carità. Questo è vero, ma se ce l'abitui pure io vento, è come quando come prima il sabato ce l'avevamo tutte, adesso è una realtà del nostro settore, parlo, il nostro settore è una realtà, è come, invece viceversa nel commercio, prima non va un esercizio a uomini che è una realtà, adesso tutti già. Sì, perché ci vedono sempre più cani, capito? Non conosciamo feste, quando è stata prendata il quello lì è lavoro, tipo Natale. Faceva meno, turistica già, posso capire vicino a un posto dove magari c'è più movimento, vicino all'aeroporto, ma cazzo, raga, d'estate, raga, una cosa che c'ha l'autopista è anche sotto in terra, cioè scorsi, ha senso, a me la sette scorsi, per ricordarmi la senso. Ma qui non ci fanno male. No. Diciamo che ci sono delle cose, le routine, ci sono qualche cosa, ma ci sono delle cose molto buone. Se fai comprare tipo la camicina che non è di marca, è molto buona. Poi le mozzarelle con le grandi, se la apri due c'è l'acqua al costo dell'acqua, ha un sapore così buono. Le perette, qualche cosa di salsiccia sono buone, di yogurt. Il yogurt che ho comprato per il bambino, figurati. Yeah. c'entra anch'io, va? Vai, è stata lì. Ciao, che c'è buono. Sì, sono lampo. Cerca di l'altro di mettere una faffetta col gonzo, quello che lo conserva, prima che ha capito l'attacco e vediamo di fare da un microfono, ma un microfono che si cazzo. Qui siamo, come si chiama, l'esterno là, delle cose, l'interno sarà Biancur. Ecco, però al limite si recupera quello là per il flessibile che è come il mio, con il collo nero, e anche il microfono di sopra, quella pare che sia vista. Sì, infatti voglio fare quello. Poi per il pulsante al limite, vediamo se trovo un microfono nuovo, gli faccio qualche modifica e ce la abbiglia il culo. Tanto mi recupero quello. Quello dell'interno non ce l'abbiglia, c'è la capsula, quello lì non funziona niente. Esatto, no, adesso si piglia si butta via, cosa ne fai? A conservare modesta. No, allora di finire tutte le cose qui. No, io ti volevo trovare perché secondo come va, ti avevo lasciato un po' di spiccioli e ne avresti comprato un pochettino di pelle buoni, perché me devo fare tutti gli spiccioli, tutte le cose. Gli apparecchi devono essere fermi, però sia con la stazione del filo e sia col filo eventualmente per collegare l'antenna. Ti ho capito. Dopo te la carichi dopo, qual è il problema? Non costa niente. ma non è affamato, penso che proprio il mangiare quasi un anno e mezzo fa, figurati, c'è appena un zingheggio. No, ma non è per quello lì, non è per quello lì, che in cui è meglio che ci sei tu, così la togli fuori, la carichiamo e la portiamo via. Adesso che ci vuoi essere io, aiuto al limite ti posso aggiungere per dire all'incrocio con dove c'era il tubo di fornitore, per dire, oppure all'angolo del ponte. No, se rusco in mezzo la scendiamo per andare a quella casa là, dove c'è il ponte che è a fianco alla casetta tua. Se non devi attraversare tutta la campagna con quel motorino. Sì, vabbè, la scendiamo, qual è il problema? Non costa niente, quindi. Ciao, non c'è problema per quello. Forse no, c'è problema, basta chiamarmi, c'è solo a casa fino alle 7. No. Ah no. No, questa sera non esco, anche perché non ne ho voglia, mi voglio rilassare e riposare, invece domani mattina lo chiamo, oppure lo chiamo più tardi e gli dico se domani un'ora, così io ti sento e ti dico guarda che per dire, no, quando vuoi è qui, avanti io. Spingi. Spingi un tubo, spingi. Sì, è poco bello spingere una moto in mezzo alla campagna, sembra essere a Barcellona, una volta sgonfia. Spingi, Valentini, quel vaccio è commissato. Anche se l'avevo avuto la pompa l'avrei gonfiata, ma non ce l'ho, cosa faccio? Come faccio la pompa? Dove è la moto? Campagna mia. Nulla, c'è la benzina dentro, non scende la benzina nel serbatoio del motore perché non c'ha quella specie di scambio, aria con cosa, sta scendendo la benzina dentro, tutto lì. Bisogna cambiare un gruppo, è così, perché funziona tramite il carburatore, è come lo zip dei suoi 10, che praticamente quando ci spegniamo automaticamente ci blocca la benzina, è un rimedio automatico. Comunque non è per 10, ma è un chimico, dico di 50, e lo smai, non lo un attimo, c'è qualcuno che mi sta chiamando, avanti chi mi chiama? Chiama MS, come vai a quest'ora, dove stai volando? Ah, ma stai rientrando anche io, no? E sta preso, ho preso tutti i giorni lì a Santa Maria, ma non ti ho visto. Figurati. Ma questa piccola stazione composta anche a tutti, anche piccolini. Sì, beato te, la verità, beato te. Io sono con questo piede di antenna ancora. Quando mi vuole ci scendo giù, se c'è ancora l'antenna me la attacco, se no ti vengo fuoco. Bella, bravo. A che antenna? Sta rientrando a QTH. un pezzo. Ho capito. trovo. Sì. Adesso faccio più cacciatore, vendo la roba. Si è fatta molti di CB, mi piglio le cose e poi fuggo. Fatto me, stavo vendendo un baracchino di uno di piccoli, tipo un C4, chiamo la lametta è quella, forse anche più piccolo. Funi, 5 bande, andiamo tu via, ti porta euro, tutto lo giro usuri da. Funi? Ma c'è la banda A, banda C, non ho capito come stava facendo a girare i canali, perché c'era il volume è questo, no? Poi, a fare di nido. C'eri meglio in giro se c'eri. Comunque sono uno di fronte all'altro, uno passo l'altro, l'altro passo vicino. Comunque, andiamo su, guardate un po' di caffè a me, no? ricevuto, sono sotto, sono andato sopra una battuta. Guarda che c'è il maestro che vi sta chiamando da poco fa, evidentemente non ho sentito nessuno. Ciao Claudio, buonasera, ben sentito, sto chiudendo, non mi posso trattenere, ciao, riprendi Marco. Ehi, cappa. Ciao Claudio, buon proseguo, buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossimine. Niente. Ieri era un po' fissato, perché era sempre in contatto con Mario, se ti ricordi, per quella sua presenza, per come era, per come non era. Già lo so. Ciao Messe, ciao, vi saluto a tutti a Messe, è arrivato l'Alghero, dentro l'Alghero stava chiamando. Ciao Claudio, ciao, salutano tutti, ciao. Chiamato un secoletta, sono in un buco. Ciao Malboro! Malboro! Guarda, qua non voglio esagerare, ma sta arrivando Santiago quasi 9, immagina anche tu le macchine dentro il ghetto. Vabbè. Comunque Mario, quello stai dicendo tu che era molto fissato, vedi? Quando non c'è la fissazione deve andare avanti, non deve andare indietro, come il gambero. No, era sempre interessato perché c'era un periodo che io mi trovavo spesso con Mario, già hai capito di che sto parlando, e lui era sempre curioso, ma questo, ma quello, ma quell'altro, sì, e lì e là, e poi niente, vuol dire che l'ha pigliata di repicca e è andata avanti. Ma ha fatto tutto uno, tu immagini, è stata l'unica persona che ha fatto tutto uno. Tutta una mattina, capito? Mi pare 3 anni fa. Ha fatto scritto orale, tutta una mattina. Alla grande, veramente molto molto preparato. Una persona seria, preparata, veramente. Di quelli che piacciono a me, di quelli che quando si puntano su una cosa devono arrivarci, capito? Non ci sono limiti, non ci sono limiti. Come ho fatto io, a me mi piaceva e quindi ho detto, non devo avere né limiti né ostacoli. Si studia e si va avanti. E così ha fatto lui, ma lui è stato molto, molto proprio, velocissimo. Direttamente tutto in un giorno, io invece ho fatto prima una e poi l'altra. E c'è lui tutto in un giorno, alla grande. Manco, ma cominciava. Ci sei ma non sentite a me c'è Claudio proprio. Ma non è voglia di caricare. Ma questa testa invece non ti ascolta nessuno, Perché dici che non sopra lì, ti sopra modulano, ho capito? Vabbè, se faccio Mario, vediamo se lo senti, io sono in quell'inizio. Mi dispiace non poterti rispondere. Avanti, Mario. Scommetti? Vabbè, se manco come ti sei, magari per un gassallino. con te. No, anche io, fatta a Marco. Perché sei così silenzioso? Ma guarda, se questo è il mio creato, è vero? Appunto, è stata roba tua. Silenzioso. Scusa, tutti a direttevole, no? Quindi io sono un cane morto veramente, mi. Lo so. Ti sono tutti già che ti battono dentro e fuori, no? Per me, anche nelle turme. Non mi subito quella pensando male. Guarda che disgraziato che. Ah no! Non è vero, non sono così che lo sai io. Ti mancherebbe. Io quello di magnato, ti mangio un verde. Ah, la più vicini. Cosa me lo chilo? No, facciamo attimo assieme stavolta. Io te lo mangio domani, va. Meglio così allora. Ci metti a cena domani, tutti d'accordo. Oh, allora se vuoi venire, ho chiesto le ragioni, qualche bistecca c'è me ancora in frigo. Facciamo un'altra volta, Mario, sono venuto a te, per ribadirci, ma noi siamo fatti i ravioli, la bruciano. Non credo che sia la manco l'ultima volta. Anzi, fa una cosa, quando ti capita a tiro, invece giù in campagna a preparare qualche mamma, qualche fornello, qualche graticola, pronto ad andare all'uso che comincia a migliorare il tempo, qualche sera ci facciamo una rosita e mangiamoli. Sì, mi organizzo, non preoccuparti, che lo sai, mi organizzo, come ce l'hanno in mano, con lui. Quando poi qualcuno è cotto e c'è l'acqua vicino, ci buttiamo dentro. E allora, tu sei ventesa? Sì, no. Io mi ci siamo. L'inverno, l'acqua calda e l'estate l'acqua fredda. Gappa, gappa. Claudio, ci sì. Ma tocca a Dio. Cosa ridda, eh? Pensa adesso se la stanno in un ruolo alla chiesa, a Vittorio. Attento Vittorio Lola Rosa, se ci si cambia verso. Cioè, se te ne immaginate che aveva molto sembrato di rubare a te, veramente, no? No, no, no. Ma ci va qualche giorno, gli porto via qualche voto che c'ha, cosa ha fatto il cavolo adesso. Ma che è quello lì, meglio ti dà un pezzo di cuore che darti quello lì. Che se tiene troppo. Cosa ne sai? Tu magari non ha sempre per tocco, cosa ne sai? Ma l'ha mangiato, è stato due o tre volte, forse è spaventato la volta, non so, ci ha messo la parte. Chi è che vuole entrare? Il parito. C'è la intro, me! Intra, Michela per la intra. Tanto per dire. Tanto per dire. Tappa, tappa. Ma hai ricordato che me ne sono allungato, signori? Ci vogliono le bistecche. Mi cale un fretta. Secondo me siamo, non voglio esagerare, ma almeno una decina d'anni. Già va bene, già va. Così vuoi, perché poi, come sto sbagliando? Sì, una decina d'anni. Con quel microfono? Ah no, sbagliata. Buonasera, comunque, ben entrato, ben sentito. Buonasera Giovanni, buonasera, parrucchiotta, altri non ne sento perché ho brutto, ho fatto solo con voi. Per me senti. A te e a Luca senti, a me non mi sente. Adesso mi sento più. Ah, ti sei lavato gli orecchi allora? No, ho vissuto vicino, mi sono avvicinato a voi, la voce è il burrito. Ah, no. No, oh, ti ha fatto il birito quando ti sente. Ah, bravissimo. Ciao, bravo. Bravo. Così va la vita. Allora, stai arrivando qui a Sierra Sierra. Yes, da 4-5 km dentro. Gaffa, gaffa. E già va bene, là. A me non ogni tanto ti fai sentire. Non è stato sentito sempre, io qui parlo solo 10 minuti, 10 minuti, tra le braccia un attimo. Capo, ma non è sempre che coincide che io ti ascolto, perché il più delle volte, qualche volta già è coinciso che ti ho sentito anche un po' più tardi. Ma io la notte da scuola 9 e mezzo scendo a scuola. Capo di positivo, E già va bene, là, intanto, quando ci scambiamo i saluti più della volta va più che bene. Da casa non attacco quasi mai. Vuol dire che non hai il tempo. Se avessi avuto il tempo avresti attaccato anche da casa, vuol dire che a casa c'hai altre cose da fare. No, lo accendo, metto la colonnina, quella senza fili, la metto vicino al computer, ma sto lavorando col computer, quindi. Non ci sono problemi, vi ascolto. Scappa di positivo. Lucchetta! Dubbia! Vabbè, fatto, tutto l'altro, lo stazionario, venditelo. Pappa! Ma cosa succede? Certo una cosa, Roberto, stavo provando. Se mi salgono le stazionarie a 3. Allora, guardando ieri sono riuscito a portarle a 1 e 1. Perciò... Ma poi sto qua, non sto qua, se lei ha attivato Silva. Praticamente normale, senza accordare, con le stazionarie va già a 3, 35 watt, accordando 20. Voglio nulla. Ma non me la fotti. Ah, da un bel pure, piccolino piccolino. Quanto fa che ti sigarette? Luca! Dara! Ma cosa a me? A te, scordata sì. Eia, quanto è l'amministrazionario? Un passaggio. Man, 1, 2, 3. Basta. Ce ne ha 3. Ma no, quanto dove ti accorda, va? Man, accorda. 1 e 1, bene vanno, là, ne vanno bene. Fa passaggio il watt. Grazie. Fa passaggio per il watt. E come ti fa per il watt? Ma passaggio, vediamo. E cosa devo dire? Vedi quello che vuoi tu. 1, 2, 3, la gallina fa la caccia a te. 80 sto dicendo, 80 watt. Incerta. Ma come mi vado sul balazzo, no? Ma no, mi vado un balazzo. Sì, no. Come stai andando, Roberto? Da mamma a casa. Cappagatto. Ecco. Mi sono chiamato per la parecchia tua, sì. Vabbè, allora adesso è imbarra mobile. Papà. Ah, ecco. Ma non è Roberto che c'è sotto casa mia? Non lo so io. Neanche io la so. Ho fatto da casa tua, sappilo. Come magari lo smette. Non so già la so. Però come è mio? E da tu altro uguale, sono uguale da parecchi. Uguale a cosa? Come sei tu? Ah, quello che mi sono andato. Appa. Appa se già la so, guarda, non so più parlare. No, non c'è rotto, se si sta parlando. Ma che macchina c'hai? Sì, ho una 126. Ecco, fammi l'occhio. Ti hanno fatto l'occhio, vedi, già un giorno che l'ho vista a questo qua, a questo Roberto. L'ho vista anche stamattina. A me? A te. Ma che l'ho brutto. L'ho vista stamattina. Era bucato, mi vado. Era bucato. Che macchina c'hai? Ho fatto 26. Vai che non c'è la 126. Allora, no, Luca, che macchina ho? A 400. Mi lascio. Per dire che c'è l'ultimo video che ho uscito. No, comunque, fate rispetto di questa mattina. La macchina c'ha, se l'ho visto, va, sentiamo. No, non te l'ho detto. L'ho visto tu la macchina, ma Romero lo può dire. Il canale lo può dire. No. Luca Malto. Luca Meraniello. Luca Malto. Non è neanche che lei che ma non so neanche che colore era quello che avevo visto stamattina. Grande, piccola. Ma guarda, 8x8. È 8x8? Che mi hai capito? 4x4 non fanno più, se è 8x8. No, Luca. Se non la fai fare una stazione, alla fine, non ce la faccio più lungo. Ma roba, siamo qua. Appagata. Buonasera a tutti. Sì. dovuti fare le cimalescie. Ma chi sei? Con gli altri di Monica? Ah? Ex. Vabbè, cappa. Tu chi sei? Ah? Tu chi sei? Io sono. Capito. Vabbè, la conosco da un paio d'anni. Porco bene, Marita, guarda, molto bene. A lei la conosco, sì, vabbè, un paio d'anni. Cava. Cappa, cappa. Dunque, Luca, questa. Ok. E Filippo è le cialli qua, Luca e Bu. Luca è in sogno. Ma il tamello quindi non mi sente, no? Fabio! Dimmi. O Fabrizio. No, Fabio. Ah, Fabio, lui è Luca Malinconio. Ma mi pare averlo già sentito comunque. Ero lui. Tu di Fabio sì, Marte, no? No, Fabio tu. No, ma io Fabio Marte conosco. Di tanti anni fa, Parlo 8-10 anni fa, all'incirca. Fabio, quanto mi ricordo io, no? Luca, Sara, quel Fabio che stavamo parlando stasera con Pupucu, ti ricordi? Ho capito, che c'era il cognato di Monica, tutto qua, e lui mi ha risposto, sì, ho capito Mario, no, io non ho mai sentito, e cazzo ragazza, noi lo conosciamo anche di persona, Fabietto. Adesso sarà un po' cresciuto, perché gli anni sono passati anche per lui, non la fa niente, e a Puglia, la pagliappa, è proprio vero, non me lo diamo, non è sporca pure la cosa. Quanti anni hai? Quanti anni che non entri? Io 5 anni, sì. Io non c'ero 5-6 anni fa. Quando c'era tutta la frequenza, tutti quanti che ti facevano scalino. Sì, è poliziotto, mi ha fatto. Ma c'era a tratti. Cosa? Dai, mi c'era un vaso a tratti. Era un casino. Allora, io parlavo tanti anni fa con Roberto Bandito, Fabio Walter, poi c'era JJ, poi c'era... chi è che c'era? C'era Roberto Bandito, Silvia ancora, Marcello, poi c'era Antonio Riserva, Falco Blu, ti ricordi quelli? No, sono Falco Blu, mi ricordo. Scappa. Ma tanto mi ha sentito qui. Se mai ha detto solo Fabio, io di Fabio conoscevo solo Fabio Master, ma. Bottuglio, guarda che fanno il microfono in terra. Fabio, dimmi. Aspetta, per questo che gli faccio la massa, gli dico che sei entrato a Pomponio. Ok. Oh, bianco per me, Luca e Fabio, ma ti metto da girare i broccoli, se no mi si attacca tutto. Cappa. Non ha detto chi sa, ma è lui. Che se no mi girare i broccoli. No, è la ripulsia. Dai, c'è la sala della nuova mano. Cava. Luca, ti ricordi la settimana scorsa che stai parlando di San Virio, mentre era a lavoro? A quello che è San Virio, sì. Ecco, bravo. Cappa. No, perché allora io, siccome sotto di me abita il cognato di, della ex mia cognata, e niente, ma non l'avevo più visto, io non l'ho più visto, mi ho detto, non mi sono messo il malattino, la maggior parte della giornata sto a casa. E poi c'era anche un barattino, ci parlavo tanti anni fa, bomba. E niente, ho fatto un paio di nomi, che tipo Pompurio, Claudio, la gente lì, Falcone, chi si ambientava. E niente, tutto qua. E poi ho saputo che tramite lei che entravi pure tu, ha fatto un nome, Fabio, però non mi ha sentito. e parli tu con la tua ex ragazza, però così è. Sì, sì, infatti. Però mi fate entrare uno e due, lei si apprava altre volte e basta. Come Pamela mi ha detto, può essere. Pamela? No, questo mi ha detto, non la trovo come Monica. Ah sì, aspetta, chi era? Era l'amica della sorella di Antonello, mi sa. No, la cognata, la discognata. Ah, come si chiama? Monica, entrava come Pamela mi ha detto, questo non ricordava neanche, figura, che lì mi ha detto Pamela, forse, bro. Allora sto lavorando con qualche corriere. Ehi, non è... l'SDA. SDA? Mo. Allora sei vicino al mio capannone, dove lavoro io là. Sono andato quando io. Sono andato venerdì mattina perché dovevo ritirare un pacco che me l'avevano portato qui a casa. Però io come al solito mi sono lasciato il giubbotto in capannone, c'avevo il borsellino dentro e non l'ho potuto ritirare. Così che venerdì sono andato per pigliarlo lì e poi invece era alle porte il 25 aprile. Grazie. Yeah. è tu pura, devi uscire con i biombi, che non mi si arrega. Sì, esagerate, no, ti metto in lunga. Beh, antenna che fa una canna a pesca, ma la canna a pesca veramente. Vabbè, un po' oscilla, la punta. E si conferma, Cicco. C'è un bel vento, un bel mamma. Facciamo scaldare i motori, motori, motori, KK. Partiamo! Andiamo, partiamo, partiamo! Allora andiamo, andiamo, andiamo! Vogliamo, vogliamo, fate questa Ferrari, bella! Vabbè, sì, a Carlo Felice! KK! Sarà di quello che è vicino a Città Mercato! Era esattamente, aspetta! Ma ti entra a fare quella testa rossa, là, là, 318, buh. Testa rossa era 512. Allora, 512. Allora, non è di quello lì. Ci sono gli uffici, sono più fatti. Io, nulla, altro che pompetta, E KK. Cicciato, niente su. Quanto è 5.000 in mano, no? Quappa! Chi vuole rifornitore appresso? Ma c'è qualcuno che o sta giocando o sta facendo del radio? Sarà qua dietro,